Bibbia Martini, primo libro dei Re, quattro catalogo dei principi e dei prefetti di Salomone, delle provvisioni dei commestibili, delle ricchezze e della sapienza di lui e della tranquillità del suo regno, numero delle sue parabole e dei suoi cantici. Or il re Salomone regnava sopra tutto Israele, e questi erano i ministri che gli avea: Azaria figliuolo di Sadoc sommo sacerdote, Elioref e Aia figliuoli di Sisa erano segretari, Giosafat figliuolo di Ailud era scrivano, Banaia figliuolo di Ioiada capo dell'esercito, e Sadoc e Abiatar sommi sacerdoti, Azaria figliuolo di Natan era capo di quelli che stavano attorno al re, Zabud figliuolo di Natan sacerdote era l'amico del re, e Aisar maggiordomo, e Adoniram figliuolo di Abda avea la soprintendenza dei tributi. Or Salomone avea 12 ufficiali sparsi per tutto Israele, i quali somministravano il vitto al re e alla sua casa, peroché per ciascun mese dell'anno uno di essi somministrava il necessario. E questi sono i loro nomi: Ben-Hur, sul monte Efraim, Ben-Decar a Macces, e a Salebim, e a Bet-Sames, e a Dilon, e a Betanan, Ben-Eze di Narubot, ed egli aveva anche socio, e tutto il paese di Eper, Ben-Abinadab, il quale avea tutto il paese di Nefatdor, egli avea per moglie Tafet figliuola di Salomone, Bana figliuolo di Ailud aveva ispezione a Tnanak, e a Mageddo, e a tutto il paese di Bethsan, che è presso Sartana sotto Jezreel da Bethsan sino ad Abelmeula di rimpetto a Jekman, Ben-Gaber a Ramoth di Galad, e aveva i villaggi di Avot Jair del figliuolo di Manasse in Galad, ed ei presedeva a tutto il paese di Argob, che in Basan, a 60 città grandi, e murate, le quali avean le sbarre di bronzo. Ainadab figliuolo di Addo soprintendeva a Manaim, a Chimassa Neftali, ed egli pure sposò Basemat figliuola di Salomone, Baana figliuolo di Asi in Aser, e in Balot, Giosafat figliuolo di Farui in Issacar, Semei figliuolo di Eia in Beniamin, Gaber figliuolo di Uri nella terra di Galad, nella ferra di Seon re degli Amorrei, e di Oggi re di Basan. Ed era il solo soprintendente in tutto quel paese. Giuda e Israele erano un popolo senza numero, come l'arena del mare, e mangiavano e bevevano allegramente. E Salomone avea sotto il suo dominio tutti i regni del paese dei Filistei, dal fiume sino alla frontiera d'Egitto. E offerivano a lui dei doni, e furon soggetti a lui per tutto il tempo che egli visse. Or la provvisione per la tavola di Salomone era ogni di 30 cori di fior di farinai, e 60 cori di farina, 10 bovi ingrassati, e 20 bovi di pastura, e 100 arieti, senza la cacciagione di cervi, di caprioli, e di daini, e di uccellame di serbatoio. Peroché egli era signore di tutto il paese, che giace di là dal fiume, da Taplisa sino a Gaza, e di tutti i re di che paesi, ed era in pace con tutti i confinanti all'intorno, onde Israele e Giuda viveano senza timori, ognuno all'ombra della sua vite, e del suo fico, da Dan fino a Bersabea per tutto il tempo che regnò Salomone. E Salomone avea 40.000 greppie di cavalli da cocchio, e 12.000 cavalli da cavalcare. E gli ufficiali nominati di sopra aveano l'incombenza di mantenergli, ed eglino pure somministravano con gran puntualità a suo tempo tutto quello che bisognava per la tavola di Salomone. E facevano ancora portare l'orzo, e la paglia pei cavalli, e pei giumenti al luogo, dove era il re, secondo l'ordine che ad essi era stato dato. Diede di più Iddio a Salomone sapienza, e prudenza oltre modo grande, e vastità di mente immensurabile, com'è l'arena che sta sul lido del mare. E la sapienza di Salomone superava la sapienza di tutti gli orientali e degli egiziani. Ed egli era il più sapiente di tutti gli uomini, più sapiente di Itan Esraita, e di Eman, e di Calcol, e di Dorda figliuoli di Maol. Ed egli era celebrato presso tutte le nazioni circonvicine. E Salomone pronunziò 3000 parabole, e le sue canzoni furono 1005. E ragionò intorno alle piante dal cedro, che sta sul Libano fino all'issopo, che spunta dalle pareti, e discorse delle bestie della terra, e degli uccelli, e degli insetti e dei pesci. E venivano da tutte le genti a udire la sapienza di Salomone, e messi di tutti i regi della terra, presso i quali era sparsa la fama della sapienza di lui. Note 4,4. Sadoc e Abiatar sommi sacerdoti. L'essere qui nominato Abiatar sommo sacerdote ha dato motivo ad alcuni di credere che Salomone lo richiamasse dal suo esilio. 4,5. Azaria, capo di quelli che stavano attorno al re, capo di quelli che servivano la persona stessa del re. 4,8. Ben-Hur, Eci. Questi ufficiali sono chiamati con nomi dei padri loro, perché questi erano più noti. Il figliuolo di Ur, il figliuolo di Decar, Eci 4,9, era il solo soprintendente. La parola solo è nel testo originale. 4,21. Avea sotto il suo dominio tutti i regni del paese dei Filistei, dal fiume E. Nella nostra Vulgata la trasposizione di due parole rende oscurissimo questo versetto, perché non si potrebbe mai dire qual sia il fiume della terra dei Filistei, che era confine del regno di Salomone. Come abbiamo tradotto, così leggeva S. Agostino, Q. e I. Ignos. E così esige l'ebreo. Il fiume per antonomasia è l'Efrate. 4,22. 30 cori di fior di farina e 60 cori di farina. Supposto che il coro contenesse circa 800 libbre romane, ognun vede la gran quantità di pane che si faceva di per di ad uso della casa di Salomone e la moltitudine delle persone di servizio che lo mangiavano. 4,23. Di pastura. Altrimenti di branco per differenziarli da quegli, i quali si tenevano a ingrassare nelle stalle a parte. E di daini. In questo senso credo usata qui la voce bubalus nella nostra Vulgata. Vedi Bocert. P1. Lib 3, capitolo 22. 4,25. Ognuno all'ombra della sua vite e del suo fico. Maniera di parlare che esprime molto bene la comune inclinazione degli antichi uomini a gli innocenti e sobrii divertimenti della campagna. Divertimenti quasi non più conosciuti nei tempi nostri, dopo che lo smodato lusso ha messi in tanta voga i teatri, i giochi, e le conversazioni promiscue, divertimenti, nei quali sarebbe difficile di provare che possa serbarsi egualmente la libertà e tranquillità dello spirito, la temperanza e il buon costume. Quello che io non lascerò di accennare sia l'infinito danno che il disamore della campagna ha fatto alla campagna medesima e all'agricoltura dopo che i tumultuosi piaceri delle città han ridotti i comodi e facoltosi proprietari a non saper più ricrearsi all'ombra della vite e del fico. 4,26. Avea 40.000 greppie di cavalli da cocchio. Ogni cavallo avendo il suo luogo proprio nella stalla separato per mezzo di travicelli o di assi. Nel Paralipomeni, Lib 2 capitolo 9. 25, si legge che egli avea 4.000 stalle, onde dando 10 cavalli a ognuna di queste stalle, ne viene il numero di 40.000 cavalli da cocchio e 12.000 cavalli da cavalcare. Nei Paralipomeni sono notati 12.000 cavalieri, ma è cosa usitata presso tutti gli scrittori il mettere il cavallo pel cavaliere, e viceversa. Alcuni hanno scusato Salomone dall'avere tenuto contro il divieto della legge un sì gran numero di cavalli, e dicono che egli ne avea bisogno per le sue truppe, per trasporti dei materiali necessari alle sue fabbriche, che questi cavalli erano il tributo pagato a lui da principi soggetti, 2. Paral. 9, 24. Ma la maggior parte degli interpreti lo condannano, perché ben lungi dal limitare la pietà di Davide e di Giosuè si ridusse a mantenere tanti cavalli, e principalmente per servizio dei cocchi delle tante mogli e concubine, onde ne rimase aggravato il popolo nei tributi, come vedremo. 4,28. E peggiomenti. La voce ebrea è spiegata dal bochart di cavalli corridori, noi diremmo in oggi barberi. 4,30. Di tutti gli orientali e degli egiziani. Gli orientali erano i Galilei, i Persiani, gli Arabi, e i saggi di quei paesi sono rammentati più volte nei libri santi. Gli egiziani poi pretendevano di essere stati i maestri degli orientali. Egli è noto, come i greci filosofi andavano nell'Egitto ad appararvi la sapienza. 4,31. Più sapiente di Itan Esraita, eci. Il nome di Itan trovasi in fronte al Salmo 88. E si trova nei Paralipomeni un lib, i, capitolo 15. 19. Come di poeta e musico illustre. Similmente il Salmo 87, porta il nome di Ernan. Maol credesi il nome della madre di Itan e dei suoi fratelli, benché alcuni vogliano, ciaccia e sia il nome della professione di questi uomini. Onde spiegano figliuoli del coro, ossia figliuoli del canto, perché Macol significa coro. 4,32. 3.000 parabole, e una parte ne è pervenuta sino a noi nel libro dei Proverbi dal capo X sino alla fine. E le sue canzoni e abbiamo qualche salmo, che porta il suo nome, ma non possiamo da titoli dei salmi prendere certa notizia dei loro autori, onde tutto quello che abbiamo delle sacre canzoni di Salomone si riduce alla cantica. 4,33. Dal cedro, che sta sul Libano, fino all'issopo, e ci tratto di tutte le piante dalle più grandi, qual è il cedro, sino alle più piccole, come l'issopo, e alla storia naturale delle piante aggiunse quella degli animali terrestri, degli uccelli dell'aria e del pesce. Forse Dio giudicò indegni gli uomini di tanta luce, quanta intorno alle cose della natura avrebbon potuto acquistare da queste opere di Salomone, e permise che si perdessero. Non credo di dovere fermarmi qui a fur parola di varie opere di altra specie falsamente attribuite a questo gran re da uomini perversi, i quali col nome di lui procurarono di dar credito alle loro stravaganze e fattucchierie.